È un filosofo, è colui che si pone le domande su tutto. E allora ti devi chiedere anche, perché lui è un pedofilo e io no? Ma chieditelo veramente a fondo. E se sei onesto e non credi a ciò che l'ego ti dice che ti conviene di credere, ma vai via via in fondo, ti accorgerai che non sarai stato un pedofilo, ma un figlio di puttana, sicuramente sì, in sacco di occasioni, anche se credi di essere stato sempre buono, l'avrai fatto infinite volte per il tuo interesse. E torna conto personale, l'unica tua abilità è saperlo nascondere bene, come essere umano, ma in questo non c'è nessuna colpa. Sei condizionato anche a mentire, e tutto il pacchetto si compra insieme. Quindi l'ego non è che fa, si compra tutto, anche la capacità di mentire in modo spudorato. E dice, ma lui mente, io invece dico le cose vere, e ti accorgerai dietro che ognuno di noi non fa che mentire quando è nell'ego. Però dietro rimane sempre aperta la fiaccola della verità, lì c'è la verità. Oggi quando la verità non c'è, la verità non esiste, e sono sempre punti di vista, ma vi rendete conto di cosa parliamo? Filosofi che dicono questo. Filosofi che dicono, no, la verità non è, tu c'hai il punto di vista, c'ho il mio, c'ho tutto al più, quindi sui valori si può dire niente. Per te il valore è questo, per te quindi... Quindi a scuola non parliamo dei valori della Costituzione, perché i bambini hanno il diritto poi di scegliere quando sono adulti. Quindi noi siamo in un paese democratico, ma... Quindi quando tocchiamo questi livelli così gravi di occultamento della verità, semplicemente non nessuno è cattivo, lo fa apposta.